Per dare intanto il benvenuto alle persone che sono qui presenti alla nostra iniziativa organizzata con la casa editrice Alfabeta. Non è la prima volta che facciamo qualcosa insieme, anzi è da anni che lavoriamo insieme e questa è una cosa che ci fa particolarmente piacere perché hanno contribuito non poco con le loro pubblicazioni, con il loro naso fino, che diciamo sono dei veri e propri talent scout, hanno individuato degli autori, delle autrici di grande livello che hanno saputo raccontare delle storie meravigliose. E torniamo qui questa sera di nuovo con un'autrice che è qui presente, ecco, Maria Anita Baffa. Il suo è un viaggio in un ricordo, una memoria che riemerge attraverso a causa di un'occasione particolare. E ci racconta in questo romanzo, appunto, ci descrive, ci narra la comunità Brescia, che è una realtà presente sul territorio nazionale e che è qui questa sera accompagnata, appunto, nella sua presentazione, non solo dalla voce di Elisabetta Scavazza, che è una nostra amica che ritorna a rendere vive le parole e le emozioni degli scrittori, ma anche con un gruppo musicale che è qui con noi, e Zio Cantante, mi piace tantissimo questo nome. Non si capisce chi è lo zio, ma... No, vi sveleremo alla fine chi è lo zio. Ecco. È una serata bellissima, molto promettente, siamo in una cornice diversa da quella della biblioteca provinciale e forse questo a volte... non ci premia, perché per paradossale che possa sembrare, l'ambiente della biblioteca era un po' più intimo e più attraente per certi versi, per altri insomma la cornice del centro Trevi è sicuramente molto piacevole, però abbiamo visto che la biblioteca quando fa delle cose per la lettura le deve fare in biblioteca. Non c'è niente da fare, deve essere, è un interscambio, una simbiosi, sì, che un legame si autoalimenta. Luogo, no? È un legame con il luogo, no? È il legame col luogo, col posto, sì, come ci racconterà appunto la nostra autrice, la nostra ospite. Ecco, io comunque insisto sempre nel fare anche un po' di promozione della struttura, mi perdonerete questi due minuti ancora. Abbiamo di nuovo bandito il concorso per le tesi di laurea che ogni anno ci porta una trentina di lavori e che poi presentiamo pubblicamente in alcune occasioni, quindi se conoscete qualcuno che si sta laureando e la sua tesi, indipendentemente dalla facoltà scelta, verte su un argomento locale, la biblioteca è interessata ad acquisire una copia ed inserirlo in questo premio che viene consegnato in dicembre. E poi il prossimo appuntamento, una porta sul vuoto, avremo due appuntamenti uno dietro l'altro che racconteranno delle storie ambientate al Castelroccolo. Ecco. Io vi ringrazio, vi auguro una piacevole serata in compagnia della biblioteca, della nostra autrice, di Aldo Mazza, di Elisabetta, c'è qui Tony con noi, con Leselli e del fantastico gruppo Zio Cantante. Secondo me tu sei un uomo. Tu chi? A chi ti riferisci? Tu, io? Chiede Sofia con una punta di ansietà. Sì, proprio tu. Secondo me sei un uomo, ripete il cuore senza tradire la vecchia mia emozione, così che Sofia non era riuscita a capire fino a che punto il compagno di classe scherzasse o dicesse sul serio. Dunque lei, che portava la minigonna più corta tra tutte le ragazze del paese. Lei che d'estate litigava ore con le sorelle più vecchie per poter indossare un botten. Lei che si innamorava ogni tre mesi, ora del vicino di casa, ora del giovane impiegato del comune, ora di questo, ora di quello. Lei era un uomo. È vero. Portava i capelli talmente corti che quando indossava i jeans qualcuno la scambiava per un giovanotto. In quelle occasioni però ridevano tutti, si capiva che era un fraintendimento o uno scherzo. Nicola invece aveva ripetuto con convinzione che lei era un uomo. Adesso vado avanti. Giunti a Piazza Nunziata, ad Arpi, il paese in cui studiavano, Sofia provò a indagare sulle condizioni di Nicola. Ha detto mio padre che quest'anno gli hotels posso metterli pure per girare per il paese, non solo al mare. Così tutti vedranno meglio che sei un uomo. Fu la risposta pronta di Nicola. Sofia cominciava a sentirsi male. Ma che gli era saltato in mente Nicola? Cosa voleva dire in realtà? Acri era il paese dei tanti comunisti, era anche il paese dei tanti comunisti, come alcuni dei professori che in quel paese erano nati. Comunisti convinti, e grazie a loro Sofia aveva scoperto i pezzi di Marx, di Rocha, di Toronto. E grazie a quei professori, che aveva in parte vinto la timidezza e scoperto un lato combattivo del suo carattere. Protestava per avere l'università in carattere, protestava contro i supplenti a scuola, che non sapevano niente ma erano severi. Protestava per denunciare le pessime condizioni in cui viaggiavano, il corriere vecchio, gestite da privati, sempre in ritardo, sempre rotte. In effetti Sofia aveva un carattere forte, non proprio come un uomo, più forte di un uomo. Ecco, non sono io più forte di Nicola, perché averne paura? Di scatto si girò verso il compagno di classe, lo guardò dritto negli occhi. Sì, Nicola, è vero, io sono un uomo. Ti prego però, ti prego, non dirò a nessuno. Me lo devi giurare. Me lo prometti, vero? Te lo prometto. Allora, grazie Elisabetta. Abbiamo cominciato in questo modo, mettendo, diciamo, il testo veramente al centro, e anche per un motivo. Quando è arrivato il manoscritto, noi come editori riceviamo parecchi manoscritti ed è anche sempre molto difficile, no? Riuscire in qualche modo a scegliere o a capire dove vale la pena di andare in profondità. Quando è arrivato questo testo, che ci siamo messi in tre a leggere, ero io, c'era Toni Coleselli e la Milena Macaluso, io ricordo che sono rimasto colpito proprio da questo incipit, da questo inizio, no? In cui praticamente in questo modo abbastanza particolare io ricevo un'immagine di questo, della protagonista, di questa Sofia che poi sarà la protagonista di tutto il racconto. E devo dire che questa cosa ha contato, nel senso che mi ha spinto poi a andare avanti a leggere, e devo anche dire che leggendo veniva confermata questa, cioè che non era solo un bell'inizio ma che c'era dietro qualcosa di molto profondo. Mentre leggevo ho scoperto alcune cose. Ho scoperto che Maria Anita Baffa Sofia era nata a Santa Sofia de Piro, che è un paese a Beresh della provincia di Cosenza, che questo luogo di nascita e questa provenienza, diciamo, in qualche modo impregna tutto il libro, dove è molto forte la presenza della lingua e della cultura accanto all'italiano. Ho scoperto, e poi su questo ci torneremo, che l'intreccio tra le lingue è una parte integrante quasi della personalità dell'autrice, e che la storia racconta di un viaggio che la protagonista Sofia compie da Trento, dove risiede, no? Dove lavora e risiede, verso il paese natale, appunto Santa Sofia de Piro, per il funerale dell'amata sorella. Allora, l'impressione che ho avuto io come lettore esterno, a parte dove prende la decisione pubblichiamo o non pubblichiamo, che poi è stata chiaramente positiva, l'impressione che ho avuto era quella che mi sembrava uno di quei libri che chi lo scrive deve scrivere, cioè che fosse quasi un'opera che doveva, c'era nell'autrice, c'era un bisogno profondo di raccontare questa storia, che poi in effetti significa anche fare i conti con la propria storia, no? Un viaggio nella memoria, un po' forse, questa è una mia ipotesi, anche un po' una sorta di bilancio della vita di me per mettere a posto le cose, diciamo, per metterle in ordine, diciamo, no? Però questa è la mia impressione. La prima domanda che farei a Marianita Baffa, Anita Baffa, è quella appunto di come nasce questo libro, come, quale sono, cioè qual è la genesi di questa opera. Il bisogno di raccontare è sempre presente, non solo in questo, ma anche in altre cose che scrivo, che ho scritto. E è nato forse più dal momento così del dolore di questa esperienza, di questa perdita grave così della sorella, anche se altre parti in realtà che riguardano altri personaggi del romanzo le avevo già scritte prima. Poi però non trovo modo di renderle romanzo, diciamo, c'è una parte che riguarda mia madre o c'è una parte che riguarda le donne del mio paese. L'occasione invece è offerta da, anche se è brutto dire così, un'occasione, questo evento luttuoso così, ha offerto la possibilità di raccontare il lutto e dunque esternizzarlo, tirarlo fuori, e nello stesso tempo è venuta l'idea che fosse assieme, non parlavo più solo di una donna e dunque di questa sorella, ma parlavo anche di me e parlavo anche di queste altre donne che sono venute, che hanno partecipato e hanno collaborato, parlavo di mia madre che ho conosciuto poco, però dei racconti molto di più rispetto alla realtà. E dunque ho pensato di renderlo pubblico, so che voglio anche un po' di dirlo veramente, così, ecco, appunto, di scrivere, di mandarlo in stampa o come di farlo conoscere. Grazie. Allora, il titolo è La sposa della neve, no? Sì. È proprio nell'incipit, non l'ha letto Elisabetta, lo leggo io brevemente, sono due righe. La presentazione di Sofia, che avviene appunto con questa frase iniziale, tu sei un uomo e poi tutto il resto, si conclude con un parallelo con la madre, no? Che poi sarebbe appunto la sposa della neve che dà il titolo al libro. Nell'incipit, scritto nel primo capitolo, chiamiamo qui, c'è scritto Sofia era figlia di una donna che era altrettanto forte, la sposa della neve, la sposa bambina, la sposa coraggio. E la sposa della neve non c'era più da tempo, nemmeno Sofia la ricordava bene, a volte le sembrava di averla sognata, ma poi al mattino ricordava ben poco. Quindi è un modo per raccontare se stessa, cioè come personaggio, sì, ma anche questa stesso forza che apparentemente non si vede, ma ho una determinazione che scavalca montagne. Giusto ieri ho raccontato a lei un episodio un po' particolare, personale, però giusto ieri ho vinto una battaglia, sono andata determinata dove dovevo andare, ho ottenuto quello che volevo. E sì, sono fortissima, e mia madre lo era altrettanto, a suo modo, nel suo tempo, perché è un tempo lontanissimo da me. Io quando sono nata lei aveva già 46 anni, io ero la settima di 8 figli, dunque c'era già una distanza di tempo normale, perché nascevo dopo 6 ero la settima. E dunque lei l'è stata a suo modo, nel suo tempo, nella sua cultura, in quello che le è stato consentito chiaramente, e io nel mio tempo, in quello che è stato consentito a me. Mi pare che ha letto forse, no? Allora adesso appunto Elisabetta potrebbe leggere come viene ricordata la sposa della neve. Mi ha dato anche l'impressione che fosse anche la figlia di un no, forse a me viene in mente una cosa, però che non ho detto in altre presentazioni, che devo molto anche alle altre donne, non del romanzo, ma alle donne con le quali sono cresciuta, perché la mia è una forza collettiva, non individuale, non sola. Io sono cresciuta nell'epoca in cui le donne credevano moltissimo nella lotta, nessuno avrebbe osato allungare l'età pensionabile quando noi eravamo giovani tanto, e l'hanno fatto in un'epoca in cui è più facile agire e manovrare queste nuove generazioni, secondo me, no? Allora ecco, devo molto anche a tutte le altre del periodo in cui io sono cresciuta, penso. Poi è chiaro, ognuno di noi è anche fatto in una certa parte, in un certo modo, e tutte e due le cose. Leggiamo la scuola della vita. Andiamo là dove gli uccelli costruiscono il nido d'amore, là costruiremo la nostra casa. Questo lo possiamo dire anche a loro. Vemmi, a te cosa ti tengo in foglia ne da sciurisi, a te spinto ti tengo in ne, l'ho preso da voi. Però noi lo usiamo, diciamo. Purtroppo questa con gruppo non l'abbiamo preparata, anche se io la conosco. O vedemi, ho messo più vino demi, a te cui è nave vota non nasce, tanto se bacio, ore ne da sorriso, a te cuore e non nasce. E sono passato. Così cantavano i parenti dello sposo per convincere la sposa ad andare. Uliunuse, siediti sposa, cantavano invece i parenti di lei per convincerla a restare. E lei è andata, chiese Sofia. Certo, altrimenti tu non saresti nata, rispose Gigino, accarezzando la figlia. Poi continuò. Era un gioco tra parenti, un rituale che si ripeteva ad ogni matrimonio. I parenti di lei sottolineavano la preziosità di quella donna nella loro famiglia e fingevano di non volersene separare. I parenti di lui mostravano di volerla accogliere, di rispettarla come era stata rispettata a casa sua. E dunque la esortavano ad andare. Un gioco, solo un gioco. E poi, alla fine, la sposa bambina è andata. Stretta al braccio del padre è andata verso la chiesa. I parenti e gli amici li seguivano cantando gli antichi canti benauguranti che si tramandavano di generazione in generazione. Due uomini precedevano il corteo per spalare la neve e aprire così la strada. Era il 3 di gennaio e aveva nevicato tutta la notte. Era bella? Sofia si incuriosiva sempre più. Sì, era bella. Come il primo giorno che l'ho conosciuta al frattoio del nonno. Io ero appena entrata. E lei sollevò il fazzoletto che scendeva sulla fronte fin quasi a coprire gli occhi e mi guardò. Me ne innamorai subito. E com'era vestita? Il giorno del matrimonio indossava la zoa che aveva indossato sua madre prima di lei e sua nonna prima ancora, e il capo era ricoperto da un velo di fili d'oro intrecciati che scendevano fino a coprire il viso. Avanzava al braccio del padre, sotto una pioggia di confetti che si confondevano con il bianco della neve. Malviti, Scilla, Costanza, Elisabetta, Gichina, tutti, proprio tutti, buttavano i confetti dalle loro finestre. I bambini affondavano le mani nella neve per cercare di afferrarne qualcuno da mangiare. Erano tempi duri e nemmeno i confetti andavano sprecati. Le amiche cantavano. Bella sei più del sole. Ma anche loro erano belle e per l'occasione avevano indossato le zoe della mamma, le loro mamme. E poi il corteo nuziale avanzava festoso verso la chiesa Schön Tanasit, ma quando arrivò sotto la casa di Federico di Coringhia, qualcuno urlò da una finestra: viva il duce, salutate fascisticamente! Al udire quella voce, gran parte della gente del corteo è scappata in tutte le direzioni. Scamparono a rifugiarsi nelle case più vicine. Le porte e le finestre vennero chiuse in fretta e da lontano si sentivano le madri chiamare con voci altissime i propri figli. Rimasero solo la sposa bambina e suo padre, che prontamente sollevò il braccio destro e salutò. La sposa, arrabbiatissima, si divincolò dal braccio paterno e proseguì da sola verso la chiesa. Io ero lì ad aspettarlo. Arrivò bagnata fino alle ginocchia, ma sempre bella. Emerse dalla neve che nessuno aveva spalato in piazza. I capelli si erano sciolti nella corsa. Qualcuno gridò: eccola! È arrivata Annusia e Boris, la sposa della neve. Grazie. Allora, questo personaggio viene appunto presentato attraverso i ricordi, no? E i racconti di Gigino, sul quale vorrei tornare, del padre. Però adesso, anche se siete già intervenuti, volevo soltanto chiedervi di farci entrare di nuovo questa lingua, no, che, di cui parleremo, che è molto presente nel racconto. Ecco, do la parola, come si dice, allo zio cantante, non si sa chi è lo zio, ma ci sono. Posso dire due parole su questo? Allora, abbiamo scelto dei pezzi mischiati in realtà per questa sera, un po' di pezzi in lingua Doresh e un po' di pezzi in lingua albanese, 3-2 in realtà. Questo miscuglio ci piace, l'abbiamo fatto altre volte, anche perché è un filo che ci tiene legati rispetto alla lingua che gli Doresh hanno mantenuto, hanno conservato per così tanti anni, più di 500 anni, 500 e 50, 60 più o meno, allontanati dalla terra madre nel 1467, anno più anno meno, e la prima canzone che noi vi abbiamo fatto è proprio la canzone che ricorda questo, diciamo, questo allontanamento. Moe Bucora More significa la mia bella Morea. Morea è il nome antico del Peloponneso, terra dalla quale sono partiti per raggiungere l'Italia, e quindi a scappare da quello che era diciamo, la minaccia dei turchi che stavano rimbadendo l'Albania dopo il periodo, diciamo, di libertà sotto il nostro eroe nazionale Skanderbeg, che è una figura che condividiamo con tutti gli albanesi nel mondo. Il secondo pezzo che vi facciamo invece è un pezzo in lingua albanese, è un pezzo che si chiama Zare per la fila, quindi va bene, diciamo, per le situazioni di festa, di matrimoni, e quindi è un canto alla bellezza sempre. Ci sono i personaggi principali, ma anche gli altri, appunto, ritratti straordinari di alcuni di essi. L'unico personaggio significativo maschile è Gigino, il padre di Sofia. Avete sentito nell'assaggio di lettura che ha fatto la Elisabetta questo e poi, no? Cioè questa fame quasi del racconto da parte di Sofia per conoscere, no? Questa sposa della rete scomparsa troppo presto per lei. E l'altro personaggio centrale è Cenza, appunto, la sorella che per il cui funerale poi Sofia intraprende questo viaggio nella sua memoria, e poi nella sua memoria ma anche nella realtà. Ecco, vorrei sentire un po' da lei qualcosa rispetto a questo rapporto tra Sofia e Cenza, diciamo, no? Questa, e anche un po' questo discorso l'ha già anticipato, ma questo discorso appunto molto al femminile che permea tutto il racconto. E nella domanda ci sta anche una parte sul racconto, la memoria tramandata da questo padre, e ci tengo moltissimo perché devo molto a lui, conosco la storia di tantissimi degli antenati e dei parenti proprio tanto attraverso il racconto suo, e poi ho fatto un po' qualche ricerca, anche ho cercato altre notizie. E il rapporto con la sorella è importantissimo per me, perché anch'io l'ho voluto bene, lei di più, però ha voluto bene a me, mi ha sempre accolta, sempre aspettata. Io forse ero troppo giovane per capire lei, e lei invece si è donata completamente, così ricordo, un grandissimo ricordo di tutte le volte che tornavo, quando non abitavo più a casa, ma ero fuori per studio, poi per lavoro. Ogni ritorno è stato uno più bello dell'altro. Adesso magari mi pento di non essermi fermata prima, forse non essere tornata e rimasta, ma d'altra parte quando si è giovani si corre, si va, bisogna fare, bisogna agire, bisogna trovare, eccetera, lavorare. Sembra tutto importante, no? Quello che si fa allontanandosi da alcuni degli affetti, e poi ci si accorge che forse magari valeva la pena vivere di più gli affetti e lavorare di meno, o correre di meno, viaggiare sì magari, ma correre per lavoro forse non valeva tantissimo così la pena. Ho un'immagine di lei che era già malata, e io ero tornata qualche anno prima che morisse, pochi anni, io sono tornata con una gamba ingessata, ero stata operata per la quinta volta, forse nella stessa gamba, ormai io ero rassegnata e abituata e anche so come fare, come agire, come muovermi, e però lei mi camminava dietro, lei che era malata, lei mi camminava dietro con le mani aperte, casomai io cadessi, no? In cucina così o in giro per la casa, con le mani aperte allargate ad afferrarmi. Questa è una delle ultime immagini che ricordo, quando ancora era in piedi o camminavo così. Ha dato molto a me e a tutti gli altri, specialmente ai piccoli, ecco, a quelli che eravamo più piccoli, perché ci riteneva doveva proteggerci, no? Sì. Faceva da madre in tutti i sensi. Questo l'ho capita un po' verso la fine, non verso la fine nel senso che è morta, ma negli ultimi anni qualcosa ho fatto così con lei e per lei, e quando ormai anch'io ero rimasta sola con un figlio, e forse ho capito un po' di più, ma erano gli ultimi anni, qualcosa abbiamo fatto assieme, l'ho seguita in quello che piaceva a lei, ecco questo, ma è poco, a conti fatti, per quanto è lunga una vita è poco. Ecco, ma conosciamola meglio, Vincenza, no? Che ha già parlato molto bene dei suoi discorsi, ma nel libro, nel testo, ti pregherei Elisabetta se puoi, come ce la racconta Sofia, diciamo, no? Sì, perché Sofia piangeva non per la morte di Vincenza, ma per Rado, e per tutte le volte che Vincenza aveva obbedito, rassegnata, per tutte le volte che non si era ribellata, mai un no, un forte e secco no, che avrebbe potuto modificare il corso del suo destino. E lei si alzava a prendere l'acqua, o un coltello, o qualsiasi cosa le chiedessero. La risposta era sempre sì, sì per tutti, piccoli e grandi della famiglia. Era bella Vincenza, questo Sofia mi ricordava benissimo, ebile, con bei capelli morbidi e fini, raccolti in due trecce, bocca piccola e occhi verdi che chiudeva come due fessure quando doveva fissare qualcuno o qualcosa. Era miope e non lo mise mai. Amava leggere la Bibbia e i giornali tenersi informata. Si scambiava le riviste con le amiche del paese e non mancava mai a una messa, a una processione o a un pellegrinaggio. Era stata pure attenta a trovare Sofia in due occasioni, per recarsi a una visita medica specialistica e per la comunione di Lisandri, il figlio di Sofia. Ma aveva preso poco sul serio i consigli del medico di Trento e rifiutava di curarsi. L'avevano portata a visitare di Vallegarda, tutte le chiese di Trento e di Bolzano. Siamo in Svizzera qua, dicono tutti danke. Aveva chiesto Cenza, ricordando la lingua che aveva sentito parlare a Zurigo quando era andata ad aiutare la sorella Mariuccia, che aveva avuto un bambino. No, siamo a Bolzano. Qui la gente parla due lingue, il tedesco e l'italiano. Sì, no, come noi. Sì, proprio come noi a Santa Sofia de Pino. A Brescia è italiano. Davvero? Aveva detto lei, spalancando gli occhi come un bambino che fa una nuova scoperta. Grazie. Ecco, qui arriviamo a uno dei punti, uno degli aspetti interessanti del romanzo, che è quello linguistico. Questo discorso della direi di queste due culture, queste almeno due, diciamo le prime due, poi dopo ci sono le altre che sono aggiunte nella storia, nella vita. Questo discorso della minoranza Beresh, no? Come accennava prima Erion, che si vede proprio un bilinguismo, cioè al di là della comunità, proprio nella persona. Posso ricordare un particolare che è stato oggetto di trattative quando stavamo cercando di realizzare il libro, e io leggendolo sono stato incuriosito per la forte presenza, no, di questa lingua, della Beresh, e mi sono accorto che in vari punti non era stato non volevamo fare una traduzione o note o parentesi, ma in qualche modo rendere possibile al lettore comprendere quello che veniva scritto. E ricordo che Rianita ha reagito quasi come diceva perché, no? Ma si capisce, no? Nel senso, con questa risposta mi dava il senso che per me era proprio, era la stessa cosa, era una cosa che era incastrata, era intrecciata, e poi dopo ci siamo capiti su quello che volevamo dire, siamo arrivati ad un onorevole compromesso, nel senso che leggendo il libro troverete, ed è molto bella per me, non è un fatto estetico, questa grossa presenza di questa lingua, che è una delle lingue che attraversano la vita dell'autrice, anche se io ho qualche dubbio ancora. Volevo... Ma forse tra i presenti chi è bilingue, conosce sia il tedesco che l'italiano, magari lo capisce un po' di più, che c'è una componente sociale nell'essere bilingue o trilingue o multilingue, e c'è una componente privata, per cui uno lo vive a livello sociale come territorio, e dunque Bolzano, dice, io sono di Bolzano, parlo il tedesco e l'italiano e parlo tutte e due, poi c'è chi parla solo una e va bene, ma insomma sono scelte, e lo vive e gli sembra strano che un altro abbia bisogno della traduzione, non si sta parlando in italiano, e però arriva il marito tedesco, l'amico tedesco, e inizia a parlare in tedesco o mischia, sembra normalissimo, no? Per chi le lingue le parla tutte e due, se tra i presenti c'è chi le parla tutte e due. E per me è lo stesso, c'è una componente sociale, per cui il gruppo di Santa Sofia de Pino, di San Demetrio, di Macchia o di San Benedettulano, di altri paesi, è noto, sono paesi a Brescia. Però qui c'è una componente personale, e l'ho capito col tempo, perché per esempio mio padre non la viveva così forte, si sentiva molto più italiano, parlava tutti e due, naturalmente parlavamo al Brescia, a casa sarebbe stato ridicolo avere un padre che un giorno torna e parla solo in italiano, avremmo riso tutti, però non la avvertiva proprio forte, come invece la avvertivamo alcuni di noi nella famiglia, io per esempio di sicuro sì. E non so garantire di tutti i fratelli e tutte le sorelle, però io sì, sicuramente l'avvertivo forte, così come ho avvertito forte col passare degli anni quando ho studiato l'inglese e ho studiato anche il tedesco, e sono stata in Germania e sono stata in Inghilterra o in America, ho avvertito come passare nell'altra lingua, che è normale se la situazione impone o chiede o è piacevole che si passi così nell'altra lingua. Mi auguro sempre che questo lo capiscano i legislatori, che capiscano che non è una imposizione il fatto di dover imparare, ma forse se passasse a loro nella testa l'idea che imparare più lingue è bello, è interessante, se le ponessero con questa modalità, invece di dividere unirebbero di più, forse, no? Avrebbero ottenuto migliori risultati, otterrebbero anche migliori risultati. Ecco, nel libro appunto si è riusciti poi a a tradurre, perché non è una, insomma, a spiegare, no? Non è una traduzione. Sì, a volte si traduce in maniera molto, molto, molto elegante questa cosa. Qualche dubbio a me è rimasto, per esempio io approfitto della serata per chiederlo, quando per esempio loro le donne non avevano altro divertimento che Cuculin. No, Zuculin. È un gioco antichissimo, credo, di tutta Europa, se non oltre, con un legno che si tira. Ho visto i pakistani giocare in qualche parco a Trento e sono andata per curiosità a chiedere come chiamate questo gioco, pensate, per vedere se le lingue erano parenti, attraverso un nome, era un nome non somigliante a quello che conoscevo io. Sono andata subito a chiedere, ma come lo chiamate la vostra lingua questo gioco così? E dunque è un gioco diffuso, credo, no? Tirare un altro legno, quei bottoni quando ci sono, ma in altri testi anche il gioco dei bottoni al posto delle monete che si tirano contro il muro e così, insomma c'è. Sono diversi giochi, tanti giochi antichissimi. Per la traduzione invece ho tradotto tutto quando ho inserito delle poesie in sci. E dunque quelle erano da tradurre perché altrimenti il testo magari neanche al mio paese, nei paesi a Brescia, tutti avrebbero potuto capire tutto. Quando ci introduco poesie dei poeti kosovari in esilio, allora naturalmente citando anche i poeti, non ho fatto mie quelle poesie, ho messo tra parentesi il nome del poeta, e quelle sì sono tradotte anche in italiano, non solo per la comunità italiana ma anche per la comunità a Brescia. Ecco, adesso abbiamo parlato della lingua, la vogliamo sentire, mi darei di nuovo ancora se vuoi dire. Adesso è l'inno del primo marzo, adesso è questo. No. Adesso facciamo un pezzo che si chiama Yedi Tundoba. Questo è sempre in Arboretto. Yeah. sentito i suoni di questa lingua di cui stiamo parlando e chiaramente la lingua trasporta anche cultura, no? Non è soltanto un discorso appunto di suoni. E il libro, il racconto, in qualche modo è come un cesto dove tu puoi prendere, no? Abbiamo detto viaggio alla memoria, no? Puoi prendere varie cose e anche ci sono in maniera molto incastrata con la vicenda, poi molto bene inserite, ci sono tutta una serie di ricostruzioni, no? Di presentazioni di tradizioni, di usi antichissimi, no? di questa comunità. Io prima di chiedere qualcosa su questo, chiederei a Elisabetta di leggere appunto la parte che riguarda un rito del Natale famoso. Ma se era il 3 di gennaio quando vi siete sposati, allora c'era ancora Ziarmi di Natale? Sì, c'era ancora il fuoco di Natale. La legna è sempre stata così tanta che si faceva rimanere il fuoco acceso in piazza fino al 6 di gennaio. Il fuoco attorno a cui sedevano gli uomini cattivi, anche questo Sofia ricordava della sua infanzia, non erano cattivi, pensavano in modo diverso, antico, come i loro antenati che avevano studiato poco e applicavano le regole che avevano imparato dai loro padri senza sapere perché lo facessero. Gli era stato insegnato di fare così, ubbidivano e basta, ubbidivano, non si ribellavano. A Sofia sembrò di sentire le voci alzarsi da lontano. In realtà anche quella era una storia che suo padre le aveva raccontato così tante volte che a lei sembrava di averla vissuta. Lei allora era con la mamma che la teneva ben salda per mano, come faceva Marcella con la figlia sua, come faceva Angica con la figlia sua e come facevano tutte le mamme. Tutte tenevano i loro bambini lontani dagli affari dei padri quando questi, la notte di Natale, sedevano attorno al fuoco per la grande decisione. Gli uomini attorno al fuoco erano coperti da grossi mantelli neri e portavano in testa cappelli a falda larga che nascondevano gran parte del viso. Così era difficile riconoscere i loro volti. Parlavano piano, con lunghe pause, e ogni tanto qualcuno di loro offriva un bicchiere di vino a tutti gli altri. In coro rispondevano al buon Natale dei passanti che andavano alla messa di mezzanotte. Messa di mezzanotte che però iniziava alle 10:30, altrimenti nessuno ci sarebbe andato. Andavano davanti. Tutti aspettavano. Era l'attesa di un anno intero per un rituale che durava solo pochi minuti. L'unico rumore che si levava nell'aria era il crepitio della legna. Poi qualcuno parlò. Era Tiluzzi. Tiluzzi. A chi toccherà quest'anno? Giulì? A Turravo? No, non poteva toccare a Turravo perché gli era morta la moglie e i lutti a Santa Sofia si dovevano rispettare. Forse toccherà a Giuni? Tiluzzi provava ad indovinare. No, rispose Giovanni. I Giumi non vengono più di paese. Giumi? I Giumi non vengono più di paese. Vanno a fare la spesa a Bisignano perché là parlano calabrese, come loro, e possono confondersi e non si fanno più vedere da noi. E allora tocca a Bosco, che ogni domenica si presenta a messa e ha pure detto che ha il desiderio di sposare una donna alberese. Ho sentito dire che pure Zotti sarebbe d'accordo se toccasse a lui. No, ci hanno già pensato le famiglie che hanno una ragazza da marito. Non gli rivolgono più la parola, impediscono alla figlia di uscire quando lui è qui e non gli fanno nemmeno legare l'asino davanti alla loro porta quando viene in paese. Qualche settimana fa gli hanno pure slegato l'asino dalla siepe di Gico Gallit, con la scusa che Gico aveva messo un cartello che impediva ai calabresi di legare asini alla siepe. Risero tutti, ricordando l'italiano parlato da Gico. Poi continuò. Quel giorno il povero Bosco ha girato tutto il paese per trovare l'asino, finché qualcuno gli aveva detto che l'animale era alla Fischia, alla fontana di Donna Chilit. Alla Fischia, alla fontana di Donna Chilit. Adesso andiamo avanti noi. Non posso dire troppo lunga. La conversazione sui probabili candidati si protraeva sino a tardi tra gli uomini seduti attorno al fuoco di Natale. Si menzionavano tutti i nomi e soprannomi che venivano in mente. Si procedeva a tentoni, Nessuno sapeva in realtà cosa e come era stato nel passato. Tutti vantavano una eredità di memoria che in realtà era inesistente, ma nessuno osava ammetterlo. Nessuno osava mettere in discussione gli antenati. Nessuno osava ribellarsi a tanto sconosciuti quanto condivisi rituali barbari. E infatti trovare il candidato era diventato davvero difficile negli ultimi anni. E quando pioveva e il fuoco di Natale in piazza non si poteva accendere, era come una liberazione. Non era semplice. Non era per niente semplice. Le donne preoccupate ascoltavano in silenzio i maneggiamenti dei loro mariti, stringevano a sé i bambini, qualcuna stanca si avviava verso casa. Solo il tempo avrebbe cambiato le cose, ma questo allora nessuno lo sapeva. Così come nessuno sapeva perché il candidato era sempre un uomo, mai una donna. Era stato così anche in passato? Nessuno lo sapeva, ma nessuno ammetteva di non sapere. Ma allora non c'è più nessuno? Chiese Tiluzzi rassegnato. Ma c'è Albinucco che lavora dai beci, rispose Guidoni, guardandosi attorno per paura che qualcuno lo sentisse. Albinucco è latino. Liti. Liti, che sta per latino, no? Sì. Preso italiano, italiano. Non l'avrei mai detto. Parla proprio Sinà, disse Augusti mentre si versava un altro bicchiere di vino. Sì, è vero, parla proprio come noi, ma sempre Liti, eh. Liti, corriamo subito da Beci e ce lo facciamo consegnare, disse Tiluzzi alzandosi per primo. Gli altri prontamente lo seguirono, anche se prontamente era più nello spirito che nelle gambe, che traballavano per il troppo vino. Vieni, vieni, continuavano a ripetersi, tirando fuori da sotto i mantelli dei grossi bastoni. Dalla piazza di Sant'Atanasio si avviarono verso Via Grande, poi si infilarono in fila per due sotto il portico di Don Vincenzo. Ma quando imboccarono Carcarellette, la piazza di fronte a Palazzo Pesci, una figura gigantesca sbarrò loro la strada. Coperta da un grande mantello nero e un fazzoletto legato come un bandito per non far vedere il volto, la strana figura, su un cavallo e con un fucile puntato proprio verso di loro, intimò al gruppo di fermarsi. Non fatemelo ripetere, andate via o sparo. Se sei a Brescia, da che parte stai? Chiese Zeppi, che aveva dovuto più di tutti e non si rendeva conto del pericolo. Dalla parte dell'intelligenza. Albinucco è lieti, ma studia medicina e dai Brescia non è servo. Aiuta il dottore e fa pratica. Voi invece pensate solo a bere e a rubare per vivere e dei vostri figli non vi importa, tanto ci sono le mogli che ci pensano. Andate via o sparo, bruciate i vostri bastoni. E spararono i colpi in aria, scapparono tutti come conigli e in gran silenzio. Persino Augusti bruciò il bastone che aveva ricavato da un vecchio asco che gli aveva lasciato suo nonno. Il fuoco di Natale dovette rinunciare per sempre alla sua vittima. Poi può raccontarci questo rito e anche un po' come sta oggi. Sì, in realtà è enfatizzato perché non è che poi moriva nessuno veniva bruciato. Era semplicemente anche questo un racconto che veniva sempre spesso fatto, che i calabresi non potevano avvicinarsi, non nel giorno di Natale, era come se disturbassero la festa. E era un modo per spaventarli solo, forse si spingevano un po' verso il fuoco, come si intimava loro, no? Ti buttiamo là, o verrai bruciato, così in realtà non è mai successo, non è mai stato bruciato nessuno. C'era però questa specie di, più che odio, perché è difficile dire, c'era questo astio verso gli uni e gli altri, come succede in tutti i gruppi che vivono, convivono, si amano e si odiano, no? Si ha bisogno degli uni e degli altri, però anche pone molte problematiche così. E poi io naturalmente racconto un po' di più, lo rendo un po' più tragico, anche se alla fine spiego che però nessuno viene, in realtà viene bruciato. E ci tengo forse a pensare un'altra cosa, non era mai una donna, è vero, e per chi li ha pesci le donne le rispettano, nel senso che un pochino, forse siamo tutte, e dunque non era mai una donna, se... sicuramente non sarebbe mai stata donna a nessuno di bruciare la moglie se... di tizio di casa, ma il marito se... sì. Se il personaggio che li ferma ha i capelli lunghi potrebbe sì, essere una donna. Sì, potrebbe essere una donna che ferma gli uomini, però. Però tu racconti poi nel libro anche di donne che vivono sole e che hanno un destino tragico sì, nel paese. Sì, certo. Gli uomini, comunque gli uomini in generale hanno rispetto, gli uomini del Brescia, le donne. Qui sono le donne che vivono sole, che vengono raccontate, sono le donne abbandonate da mariti che magari andavano a lavorare in Germania, in Svizzera, trovavano l'altra moglie, come è successo a tante, oppure donne che per altre ragioni, l'estrema povertà, e magari rimanevano vedove con dei figli e lavoravano arrivando fino alla malattia, così. Sì, racconto anche di questo gruppo di donne che assumevano, venivano chiamate Laura, la pazza, no? E in realtà magari non erano proprio pazze, vivevano ai margini così della società come oggi tanti poveri, così. E erano integrate, però facevano parte del quadro del paese, quadro chiamiamolo paese, no? Del quadro, chiamiamolo quadro, ma insomma dell'insieme delle persone, vivevano benissimo ed erano comunque in qualche maniera dalla comunità sicuramente rispettate in questo loro cammino, in questo loro destino. Racconto anche di loro perché sono anche queste le donne che vengono il giorno del funerale, il giorno prima a visitare la morta, a fare visita, e a modo loro tutte contribuiscono e portano un mazzo di fiori, non sapevamo più dove metterli, per esempio erano più di 50 alla fine, mazzi di fiori, tante, le corone, i bouquet, non sapevamo più dove metterli, dietro il portone, all'ingresso era pieno, attorno alla bara non si poteva più avvicinare nessuno, e fuori dalla porta, attorno alla casa, tutti appoggiati così, e contribuiscono, anche se povere, hanno comunque il loro modo, spendono dei soldi per portare un mazzo di fiori, per portare un chilo di confetti, per far sentire la loro vicinanza, non risparmiano certo in un funerale o in un'occasione così. E allora certo racconto anche di loro, perché hanno fatto parte anche loro della mia infanzia, e anche loro mi hanno arricchita nei sentimenti, mi hanno arricchita nell'esperienza. E c'era una di lei, io ne parlo di un altro romanzo, c'era una donna che toglieva il malocchio, io ero una dei clienti fissi, era gratis comunque, ero una dei clienti fissi, appena avevo una difficoltà con un fidanzato, avevo un mal di testa o una qualsiasi difficoltà, correvo veloce, io magari non ci credo tanto, però tutto poteva aiutare, ero sempre là, ero sempre da lei, trascorrevo pomeriggi ascoltando le altre storie raccontate da lei. Ecco, solo per informazione, anche diciamo, noi siamo minoranza, viviamo in una situazione di minoranza in contatto, a fine libro c'è una piccolissima scheda, una pagina e mezza, però molto precisa, e anche una piccola carta geografica che risponde alla domanda semplicissima: chi sono gli alberesi? Ma non abbiamo dato per scontato che tutti sappiano cosa siano. C'è una piccolissima presentazione di queste isole, queste comunità, di queste isole che sono arrivate, appunto, ero accennato prima. Questa è una informazione utile per inquadrare un po' il tutto. Adesso io stiamo arrivando quasi alla fine. Il viaggio, diciamo, come tutti i viaggi, a un certo punto finisce, no? E Sofia torna a Trento, no? Sì. Trento è la città dove Sofia risiede con il figlio, e qui Elisabetta, se puoi dare questo ultimissimo accenno, appunto, alla fine, al capitolo finale, diciamo. Lo specchio del bagno, mentre si toglieva i vestiti per lavarsi, le restituì l'immagine di una donna stanca, vecchia e piena di rughe. Ecco cosa aveva conquistato con il lavoro sicuro di ruolo, una vita di fatica per pochi soldi, perché gli aumenti si erano arenati assieme alla scala mobile, e una vecchiaia arrivava in gran fretta a ricordarle che era capolinea e nello stesso tempo al principio della sua esistenza. Era come se non si fosse mai mossa, povera prima di partire e povera dopo. Una vita di fatica prima, È una vita di fatica adesso e senza prospettive. Non era cambiato nulla dalla partenza, a parte aver capovolto l'esistenza in una terra dove non era nata. Era come se non fosse mai partita, ma nello stesso tempo aveva perso tutto. Ci rubano il futuro, avevano gridato i giovani in una manifestazione. A noi hanno rubato anche il passato, pensò Sofia. Portando la bandiera di Rifondazione Comunista in corteo con la mano destra, mentre con la sinistra reggeva la fasciatura che l'avevano fatto al pronto soccorso perché soffriva di vertigini e una settimana prima era caduta in casa e i due costole le si erano inclinate. Poi si buttò sul letto, stanca morta. Ecco, grazie. Io proprio per chiudere, vorrei chiudere con una prima domanda e poi se ci fate il piacere di darci un altro assaggino musicale. Assolutamente. Poi se c'è qualche domanda dal pubblico. Le ultime, tra le ultime parole del testo c'è questo: Sofia ebbe nostalgia di tutto e di tutti e di tutto, il vero lutto cominciava adesso, no? Sì. E poi c'è, le ultime due parole sono veni, andiamo, no? Cioè, quindi volevo, una domanda, non vuole essere indiscreta, ma come sta Sofia oggi rispetto alla sua storia? Uguale ad allora, nel senso che la nostalgia c'è sempre, comunque il rimpianto c'è sempre, comunque la accompagna nel corso della sua di vita. E perché c'è un tempo brevissimo, e sembra una grande salita, no, da giovani, e poi c'è un tempo lunghissimo che è la discesa, cioè a mio padre la discesa, ed è lungo, uno non lo immagina così, non immagina che diventa vecchio velocemente, pensa che non capiterà mai, non capiterà a sé, forse capita solo agli altri, e arriva veloce quando uno meno se l'aspetta, e dunque uno considera un po' di più quello che sono stati gli altri che erano i vecchi o quelli più grandi comunque di noi, i malati che ci hanno preceduto, e credo che sia peggio di prima, che sia peggio. Diciamo che ho una visione anche però positiva di tutto quello che faccio sempre cose che mi piacciono, se ho sempre scelto cose che mi piacciono, dunque vado avanti comunque. Ecco, curandomi vado avanti comunque con questo ricordo, con l'impianto, con la nostalgia, con mischiarmi continuamente e sempre. Non ho mai porte chiuse al rimescolamento, così quando vengo a Bolzano ci vengo, mi sento a casa, mi sento, anche se io non ho vissuto moltissimo, ho vissuto un pochino a Bressanone, nel senso viaggiavo, e a Bolzano dovevo venirci comunque per l'università, per altre cose. E sono venuta sempre molto molto volentieri, ed è come un ritorno a casa. Qui è un ritorno a casa. Quando torno a Santa Sofia nel sud, mi sento a casa a Trento. Ci sono giornate che proprio camminare a Trento per me è come camminare sulle nuvole in pieno centro, così vado a fare magari una commissione o altro. Vivo anche in un modo molto capovolto rispetto agli altri, vivo in un modo completamente diverso dagli altri, non faccio niente che fanno gli altri, non faccio cose, non faccio nulla che gli altri fanno, e mi piace moltissimo. Ma scusate, ma nel pubblico c'è una persona che si chiama Grisolia, perché io vedo sempre meno, molto triste, se che è devo fare. Io lo vado a salutare, però mamma mia, è un arbrecci come me, non lo vedevo da tanti anni. Signore e signori, caramba, che sorpresa! Musica, basta. Io, mentre loro ti salutano, volevo anche dire questo, siccome io vengo dal sud, no? No. Avrete tempo di chiacchierare? Fa piacere di questo incontro. No, io insomma vengo anch'io dal sud, quindi mi hanno sempre detto, anche da profondo sud, c'è sempre questa una definizione rispetto al meridione, era stata sempre questa di vocazione alla sofferenza, no? Cioè questa, questo fatto che quasi, insomma, non star male è quasi come un dovere, quasi come una. Ecco, la cosa che mi è piaciuta in questa storia, che è anche una storia per certi aspetti triste, no? Che ha, però che non ci sia nostalgia, non ci sia la retorica della sofferenza, no. Ci sia appunto un po' quello che raccontava lei alla fine. Allora, chiusa questa parentesi, chiudiamo, adesso procediamo di nuovo alla musica, il posto che merita. Allora volevo dire io due parole, poi magari le dice anche lei, forse meglio delle mie, però io le dico dal cuore, così per noi questa canzone è un po' come l'inno di Mameli quasi. Però perché in realtà parla di fiori, no? Di fiori raccolti e vasi, ma perché fa rima col fatto che per l'innamorato, per quella donna diventa matto, cioè talmente innamorato diventa matto e fa rima. È quasi un inno, direi così, anche se no, è un inno patriottico, però è un inno all'amore. Viva l'amore. Viva l'amore. Prego. Cuba del mundo. realtà abbiamo tre cantanti che nessuna delle tre oggi è presente e quindi tocca cantare a me, quindi io non sono il cantante, lui non è lo zio, ma la storia nasce un po' così, ci troviamo tra amici a suonare, a un certo punto abbiamo detto ma possiamo formare un gruppo, gli diamo un nome, portiamo gli strumenti, Stefano dice io vengo con la chitarra, io dico io porto il buzuki, con noi c'è Elisa e fa io porto la zia armonica. No? E lui, chi è la zia armonica? No? All'inizio dovevamo chiamarci zia armonica, zia armonica, zia armonica, lei poi sai come sono le donne, ogni tanto si impuntano, ha detto no, questo nome non mi piace, dobbiamo trovare un altro. E io dico c'era mio zio che quando tornava a casa un po' allegro, perché aveva bevuto magari una racchia in più, no? Una grappa in più, no? Sua moglie lo gridava e quindi lui per farle passare la battitura le cantava sempre questa canzone che adesso vi facciamo noi che si chiama Io Pizza. E da lì poi dopo zio cantante è venuto fuori il nome e l'abbiamo tenuto perché è bello e facile da ricordare. Il pezzo si chiama Iorgizza ed è un pezzo che io amo particolarmente. La. Ringraziamo lo zio. Grazie. Ringrazio i musicisti. Alla mia sinistra Stefano Casellato alla chitarra. Alla mia destra Samir Amato o Samir Amato alle percussioni. E tu Erio Deco. Spero tanto che questa presentazione vi abbia incuriosito, vi porti ad aver voglia di leggere questa storia. I libri sono lì per chi dovesse volerli acquistare. Grazie che ho organizzato. Prego? Grazie all'alfabeta. Sì, grazie. Grazie a voi. E anche la biblioteca Claudio Augusto. No, insomma, noi è una cosa molto complessa, complicata, però stiamo cercando un po' di seguire una linea, sembra che emerga anche. Li vedete anche un po' tutti i libri di narrativa, oltre all'altro libro scritto dalla professoressa Baffa. Io ringrazio, non so se ci sono, siamo un po' oltre, sono 7:30, se ci sono domande non c'è problema. Però appunto dipende un po' da voi, di solito so che più di un'ora, 1:10 non si regge, quindi se ci sono domande appunto siamo a disposizione. Cioè, facciamo un secondo incontro. Sì. Prima leggiamo i libri un altro po'. E poi faremo un altro incontro. No, se non ce ne sono, si può appunto a livello informale adesso può fare due chiacchiere, chi vuole può comprare i libri e l'autrice li può in qualche modo dedicare personalmente. Io qui ringrazio Elisabetta Scavazza che di nuovo ha prestato la sua voce, perché diciamo è una nostra, diciamo, una nostra scelta precisa, quella appunto di non tanto, non sempre presente nel mondo di lingua italiana, quella di mettere il testo al centro, diciamo, nelle presentazioni, no? Noi facciamo questo mix che spero arrivi. L'autrice è molto a Baffa per averci regalato questa opera.